edizione. 6:15 di questo venerdì, cominciamo copertina di prima edizione con lo Zapping TV questa mattina. Ieri sera il debutto su Sky di Paolo Rossi. Signore, ascolto un umile comico, sono qui a far penitenza, signore. Signore, io non so più dove mettermi, nessuno al suo posto. I politici fanno i comici fanno i politici, gli ex calciatori fanno i ballerini fanno i naufraghi. I giornalisti fanno gli show e poi diventano solo show, gli avvocati. Signore, perché hai fatto gli avvocati? Io vorrei sapere perché in questo momento in cui in Italia noi abbiamo bisogno di miracoli, invece di mandare i santi ci hai mandato i tecnici. Signori, i tecnici sono gente pragmatica, fanno veloci loro. Siamo in 5. C'è da mangiare solo per 3, loro cosa dicono? 2 non mangiano. Cazzo, sono capace anch'io, signore. Signore, io qui farò outing, farò confessione, mi sputtanerò. Meglio dire confessione, signore. Va bene, signore. Però facciamo un patto. Tu continua a far sì che continui la miseria, lo sfruttamento, l'emarginazione, la corruzione. Signore, continua a far sì che continui ancora tutto questo, perché solo così, continua a far sì che continui anche in maniera tecnica, solo così, se questo continua, io avrò materiale su cui lavorare. È un lavoro sporco, ma qualcuno lo deve fare. E così Paolo Rossi debutto ieri sera su Sky, un assaggio della TV di ieri sera. Sulla setta Piazza Pulita c'era ospite invece il tecnico, il premier Mario Monti. Allora ve lo faremo sentire più avanti. A prima edizione il traffico e poi le prime pagine dei giornali. Prima edizione. Ed eccole le parole del premier Mario Monti ad aprire questa mattina le pagine dei quotidiani. La Repubblica, lavoro 8 miliardi per i giovani, la promessa di Monti. Ma nello stesso tempo il ministro Fornero, che invece dice sì ai licenziamenti anche nel pubblico impiego, e il nuovo presidente di Confindustria Squinzi, che dice troppe tasse sulle aziende. Monti 8 miliardi ai giovani, anche per il Messaggero. Il presidente del Consiglio lancia il piano per l'occupazione, gli eurobond sì faranno. Il Corriere della Sera, anche qui piano di Monti per i giovani, il premier promette 8 miliardi di misure sul merito, lavoro e fisco, le critiche di Confindustria al governo, le cose che non ha detto Squinzi, il commento di Dario Di Vico sulla relazione ieri del neopresidente di Confindustria. Un imprenditore scrive, dotato di un solido alfabeto delle priorità, e bene ha fatto a sciorinarlo davanti a quello che per 4 anni sarà il suo pubblico. La stampa un'apertura un po' diversa. Unione Europea, bene i conti, ora crescete. Perché la stampa pubblica in esclusiva la pagella di Bruxelles sull'Italia. Bruxelles che dice non servono altre manovre, almeno il tesoro nazionale è al sicuro. Così scrive questa mattina la stampa di Torino. Il verdetto della Commissione Europea è che la risposta dell'Italia alla sfida della sostenibilità dei conti pubblici è stata determinata ed ampio respiro, tanto che se le misure saranno tutte adottate, e questo però è il se, Roma non avrà bisogno di altri aggiustamenti. Così questa mattina la stampa di Torino. Il Sole 24 Ore, naturalmente l'apertura la dedica alla relazione del neo presidente di Confindustria Squinzi. Niente favori, un paese normale. Squinzi, non chiediamo privilegi, ma azioni concrete su burocrazia, fisco e credito. Ritorno alla normalità, il commento, l'editoriale del direttore del Sole 24 Ore Roberto Napoletano. La relazione di Giorgio Squinzi all'Assemblea di Confindustria, scrive, ha avuto il merito di non aggiungere rumore a rumore e di indicare in modo netto, senza nessuna indulgenza alla polemica politica, l'urgenza delle cose da fare. Così Roberto Napoletano. E allora, prima di passare alle altre molte notizie sulle pagine dei quotidiani, questa mattina facciamo anche una parentesi, perché se Squinzi arriva, Emma Marcegaglia chiude con questo davvero definitivamente la sua presidenza di Confindustria. Allora l'ha intervistata per noi Vincenzo Miglietta. Presidente, questo passaggio di consegne, cosa ha trovato di particolarmente interessante nell'intervento del dottor Squinzi? Ma a me è piaciuta molto, una relazione molto concreta, molto forte, che dice esattamente che cosa vogliono gli imprenditori, rivendica anche l'importante ruolo per la crescita che hanno gli imprenditori, che nessuno vuole incentivi ma vogliamo solo essere messi nelle condizioni di lavorare, quindi mi sono identificata completamente in questa relazione, mi è piaciuta molto, è un buon inizio, quindi credo che Squinzi, come ho sempre pensato, farà un'ottima presidenza. Ecco, in base alla sua esperienza, lei ne ha parlato per anni, ritorno alla crescita, ha speranze per questo? Allora, il momento è ancora molto complicato, non si sa se la Grecia uscirà dall'euro, c'è un momento molto complicato anche nelle decisioni europee, continuiamo a essere in recessione. Qualche segnale il governo lo sta dando, questa certificazione sui crediti della pubblica amministrazione è un inizio, però bisogna continuare, c'è molto da fare, quindi noi non perdiamo mai la speranza, credo che Confindustria continuerà, come ha sempre fatto, a stimolare anche con progetti e posizioni il governo a fare ciò che serve per la crescita, non solo in Italia ma anche in Europa. C'è molto interesse intorno al suo futuro? Vado, torno in azienda, abbiamo una bella azienda che sta crescendo e quindi torno a fare l'imprenditore. Così Emma Marcegaglia, dunque, che lascia la presidenza di Confindustria al microfono del nostro Vincenzo Miglietta. Torniamo sulle prime pagine dei quotidiani, le altre notizie di oggi. Restiamo allora sul Sole 24 Ore, dove l'altra notizia che spicca questa mattina è lo scontro in Vaticano con Gotti tedeschi che lascia la presidenza dello IORE, la Santa Sede che dice gestione insoddisfacente. Il Corriere della Sera dedica a questa notizia il taglio centrale, anche qui il banchiere Gotti tedeschi licenziato dal Vaticano, l'addio tra accuse e difese, e tra accuse e veleni, scusate, il Corriere della Sera. Il commento è quello di Massimo Franco, l'esito traumatico di un lungo conflitto. Raccontano che sia l'ultima vendetta di Tarcisio Bertone, il controverso segretario di Stato Vaticano, il licenziamento di Ettore Gotti tedeschi, economista e banchiere, è il frutto marcio di uno scontro nei meandri più segreti e torbidi del potere finanziario d'Oltretevere. Ne parleremo anche in GR24. Stessa scelta per il Messaggero, Banca del Vaticano via Gotti tedeschi, mentre la Repubblica invece l'attenzione la punta sul futuro degli assetti politici nel taglio centrale. Ecco il piano ai candidati della lista Montezemolo, scrive la Repubblica. Berlusconi oggi lancia doppio turno e semipresidenzialismo, ma, scrive la Repubblica, ci sarà anche una lista Montezemolo alle prossime elezioni, lista trasversale, riformista e liberale, con un obiettivo: sostituirsi al Cavaliere. Altro tema politica di giornata ancora sulla Repubblica, via alla legge che dimezza i soldi ai partiti, si sta votando il finanziamento ai partiti, la Corte dei Conti protesta, a noi i controlli, ma il commento non è decisamente lusinghiero sulla Repubblica, il sacrificio con il trucco, questo il titolo del commento, e basta già ad inquadrare quella che è la posizione della Repubblica. Altra notizia che trovate un po' invece su tutte le pagine dei quotidiani è la vicenda di Villa Adriana, vicino alla quale vogliono costruire, si vuole realizzare la nuova discarica per Roma, discarica necessaria, dice il prefetto di Roma, ma la polemica è molta per il luogo scelto. La grande rovina di Villa Adriana, così la Repubblica. Il Messaggero, blitz del ministro Ornaghi a Villa Adriana, il prefetto Pecoraro al premier, se serve lascio. E anche su il Corriere della Sera, un ministero del patrimonio nel paese della bellezza, Villa Adriana e la discarica, a firma di Gian Antonio Stella, che scrive tra l'altro: insieme col rischio che il potentino soffi fetori pestilenziali su Villa Adriana, la rissa politica, ambientalista e culturale intorno al progetto della discarica di Carcolle offre l'occasione per una svolta radicale, capace di dare un segno concreto, tangibile, spettacolare di un cambio di passo in grado di incoraggiare il paese a crederci sul serio in se stesso e nella ripresa. Così la vicenda di Villa Adriana, che non è chiusa ma sicuramente è la bufera di questi giorni. Ancora qualche curiosità, ancora sì, ancora un minuto ce l'abbiamo, allora qualche curiosità ancora ve la racconto dai quotidiani di quest'oggi. Restiamo sul Corriere della Sera, ci sono due notizie curiose. Una è l'interrogatorio di Strauss-Kahn, ormai ex direttore del Fondo Monetario Internazionale, non candidato e non vincitore alle elezioni francesi, è stato interrogato nel procedimento in Francia contro di lui per sfruttamento della prostituzione. Un interrogatorio interrogatorio trasformato in difesa del libertinaggio. L'accusato pronto a salire in cattedra per dare lezioni da vecchio libertino. La lezione indecente di Strauss-Kahn, il racconto che trovate sul Corriere della Sera. Corriere della Sera, dove l'immagine che campeggia invece è quella di un insolito presidente americano, Obama. Obama, i capelli e il bimbo curioso Jacob, 5 anni, ma sono davvero uguali ai miei. Che è successo? È successo che un marine ricevuto con la famiglia del presidente Obama per la foto di rito al termine del suo servizio alla Casa Bianca chiede se il figlio può fare una domanda. Ebbene, Jacob ha 5 anni e fa una domanda da bimbo di 5 anni. Chiede se i capelli del presidente sono davvero come i suoi. Prova, risponde il presidente, che si china, ed ecco allora il bimbo che accarezza i capelli del presidente. Questa è l'immagine sul Corriere della Sera: Obama, i capelli e il bimbo curioso. E allora, per chi avesse invece ancora altre curiosità dai quotidiani di oggi, come sempre alle 7:20 la rassegna stampa più approfondita anche dalle pagine interne con Alessandro Milan, noi ci fermiamo qui, ma tra poco torniamo riepilogando le notizie di oggi. Italia in controluce. Una buona giornata ad Alessandra Tedesco. Come sempre il venerdì c'è l'appuntamento con Scuola in controluce. Oggi in particolare parliamo di sicurezza stradale insegnata agli studenti. La parola va a Maria Piera Ceci. Scuola in controluce. Nome? Paolo. Sara. Soprannome? Camarosh. Saretta. Età? 18. 18. Sicurezza significa? Non fare incidenti. Stare bene, sicuri, con se stessi e gli altri. Quello che state sentendo è un vero e proprio reality sulla sicurezza stradale. Se lo ha inventato il liceo scientifico Mascheroni di Bergamo in collaborazione con la polizia locale, nella provincia con il più alto numero di morti sulla strada in Italia. I ragazzi vengono intervistati proprio come al Grande Fratello e vengono votati, e chi vincerà sarà protagonista di un'estate molto particolare. Ci racconta tutto Giovanni Vinciguerra, presidente dell'associazione Ragazzi on the Road e comandante della polizia locale di Seriate nel Bergamasco. Parteciperanno alle nostre pattuglie diurne, notturne, alle nostre attività di info point. I ragazzi potranno innanzitutto vedere quello che effettivamente fanno gli agenti di polizia locale, ma soprattutto dovranno sperimentare che dietro una divisa, a volte la divisa da orchi, a volte la divisa di coloro che sanzionano, ci sono delle persone, degli uomini e delle donne che con passione vogliono dare un contributo alla sicurezza stradale e quindi un contributo alla sicurezza anche degli stessi ragazzi. Come dire, basta un attimo di disattenzione e i ragazzi, partecipando con noi direttamente sulla strada, anche a rilevare incidenti, anche ad accertare le guide degli stati di ebbrezza di altri coetanei, sono sicuro che questo lo possono capire. Arturo ha 19 anni e frequenta il 4° liceo scientifico Amaldi di Alzano Lombardo, sempre nel Bergamasco. Questa esperienza di andare in giro con le pattuglie l'ha già fatta. Fermare dei coetanei non è mai bello, perché dici allora può toccare anche a me, e comunque sapere cosa mi può capitare quando sono in giro con un tasso alcolemico nel sangue superiore a 0,5, però anche se nei neopatentati è 0. E sono gravi le conseguenze, perché c'è il ritiro del mezzo, le sanzioni sono salate e quindi... Però magari a qualche tuo amico è anche salvato la vita in questo modo, eh? Esatto, infatti me l'hanno ripetuto, perché comunque fermare coetanei, farli riflettere. Tu ci vai in discoteca? Io sì. È cambiato un po' il tuo modo di affrontare la discoteca e soprattutto il dopo discoteca? Sì, ma ha cambiato, perché comunque so cosa mi potrebbe capitare. E quindi in virtù di questo non faccio certe cose che magari prima facevo, perché alzavo il gomito, diciamo. Ci risentiamo alle 13:30 con una versione più estesa di Scuola in controluce. Grazie Alessandro Tedesco. E alle 6:38 minuti la seconda parte di Prima Edizione. Ancora buona giornata anche da Anna Migliorati. Noi riprendiamo parlando di cinema con Inviata a Cannes, perché domani ci sarà il vincitore della Palma d'Oro. E così allora buongiorno da Cannes, Cristina Battocletti. Buongiorno Anna, a te e agli ascoltatori. In realtà siamo ancora in attesa di un film importante questa mattina, che è quello di David Cronenberg, che si chiama Cosmopolis, ed è la storia di un giovane che lavora nell'alta finanza a New York mentre sta crollando l'era del capitalismo. Ma intanto ti posso dire quelle che sono le ipotesi più accreditate per il Toto Palma. Ai primi posti c'è sicuramente Amore di Michael Haneke, che racconta il declino della vecchiaia di un uomo che assiste da solo con ostinazione la moglie colpita da ictus e che va verso la fine. Haneke, che ha conquistato la Palma d'Oro nel 2009 con Il Nastro Bianco, ha saputo narrare con una sensibilità e verità molto importanti, in modo scarno e convincente, una storia che ci riguarda tutti. Se non dovesse vincere il festival, candidati alla Palma d'Oro come migliori interpreti sono i suoi attori, gli attori di Amore, che sono Jean-Louis Trintignant e Emmanuel Rivat, che hanno dato prova di grandissima bravura. Un altro attore candidato a questo premio è Mads Mikkelsen, il maestro d'asilo della caccia di Thomas Vinterberg, accusato di violenza sessuale ai danni di una bambina di 5 anni. Quest'ultima lo denuncia per vendicarsi di un affetto poco ricambiato. È un film sulla caccia alle streghe, ma anche una riflessione sulla innocenza dell'infanzia. Sicuramente un premio che potrebbe essere quello speciale della giuria o per la sceneggiatura potrebbe andare a The Angel Share di Ken Loach, che ha raccontato la storia di un ragazzo di Glasgow dal passato burrascoso di violenza e carcere, che si riscatta per amore del figlio neonato attraverso una vicenda che coinvolge Louis, che si ride molto e la commedia tiene sempre senza mai cadute di stile. Ha diviso invece la platea Holly Motors di Leos Carax, che racconta il trasformismo di un uomo di affari parigino che in 24 ore riveste una pletora di personaggi, dal mostro alla vecchina che chiede l'elemosina. Alcuni gridano al capolavoro e altri invece al film da dimenticare. È in buona posizione anche l'opera di Cristian Mungiu, che si basa su una storia vera di una ragazza romena che viene uccisa da una confraternita di religiosi attraverso pratiche per scacciare Satana dal suo corpo. La ragazza voleva infatti convincere l'amica che era entrata a far parte della comunità ad andare via con lei, ha avuto una amara fine. Difficile dire cosa succederà al nostro Garrone con Reality, che è la storia di un pescivendolo napoletano che ha l'ossessione di entrare nel Grande Fratello. Difficile dire se prenderà qualche premio, sembra di no, ma questo sempre secondo le voci, poi tutto si decide all'ultimo. Credo che il film di Walter Salle, Sulla strada, dall'omonimo romanzo di Jack Kerouac, rimarrà all'asciutto, come anche The Paperboy di Lee Daniels, che è una detective story nella Florida razzista dei tardi anni 60, che ha il solo attu di avere un grande cast, tra cui Nicole Kidman e l'idolo delle ragazzine Zac Efron. Però, come ho detto prima, devono ancora passare 3 film in concorso, tra cui Cronenberg, l'ultimo domani mattina, sabato, e lì la giuria guidata da Nanni Moretti ha ancora spazio di manovre per cambiare idea. Ma comunque ci riaggiorniamo, io sono sempre qui e intanto vi mando un saluto dalla Croisette. Grazie, grazie del saluto a Cristina Battocletti, anche oggi ti ritroveremo, già un appuntamento lo diamo in GR24 alle 13, buona giornata, allora buona visione a te. E dal cinema noi andiamo invece ancora questa mattina alla TV di ieri sera. Ve l'abbiamo già detto, c'è stato ospite di Piazza Pulita sulla 7 il premier Mario Monti, che ha parlato di molti temi. Vi facciamo sentire quello che ha detto ai giovani. Quello che occorre è negli individui giovani e poi via via una attitudine al cambiamento e quindi uno spirito di ricerca del nuovo quando il nuovo si prospetta. Naturalmente sappiamo tutti che in futuro si cambieranno diversi lavori nel corso della vita, non vuol mica dire che questi lavori dovranno essere precari, ma il concetto di mobilità è molto importante. Però naturalmente questo è per quanto riguarda l'atteggiamento che per esempio dovremmo incoraggiare nei nostri figli o nei nostri nipoti, e credo che tante famiglie italiane lo facciano. Poi però non è la responsabilità dei singoli, ma è la responsabilità collettiva e sicuramente la responsabilità del governo quello di far sì che l'economia italiana, anziché essere statica come è da 15 anni, sia dinamica e quindi si metta su un sentiero di crescita. Allora le occasioni di lavoro si creano. Tutte le cose che stiamo cercando di fare vanno in questa direzione. Così Monti, e un altro messaggio agli italiani. Io chiedo agli italiani comprensione, e finora l'hanno dimostrata, se qualche volta siamo stati un po' brutali nell'esigere sacrifici e nel fare una manovra dura di politica economica, ma le conseguenze per un paese come il nostro sarebbero state veramente incalcolabili. Prima edizione. Qual è la situazione nelle zone col Pite domenica dal terremoto? A fare i controlli in collaborazione con la Protezione Civile c'è anche Trace Lab, laboratorio per la simulazione sismica della Fondazione EUCenter di Pavia. E allora io saluto questa mattina Alberto Pavese, direttore di Trace Lab. Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i suoi ascoltatori. Allora, voi i controlli li state facendo. Parlare di bilancio è davvero troppo presto, però almeno qualche osservazione ve la siete portati a casa in questi giorni? Ma sì, dunque, noi siamo stati in alcune zone anche molto, diciamo, vicine all'epicentro e abbiamo, diciamo, fatto osservazioni sulle cosiddette strutture strategiche, quindi sugli ospedali, sui ponti, e come appunto diceva lei, adesso è abbastanza prematuro tirare delle conclusioni. Comunque, insomma, ci sono effettivamente dei danni importanti, in alcuni casi più lievi, in altri più importanti, dipende anche molto dalla tipologia strutturale. Gli ospedali, di solito i complessi ospedalieri sono realizzati in più fasi, quindi ci possono essere, non so, edifici di inizio secolo, altri più recenti. Aggiunte, quindi padiglioni nuovi, quindi naturalmente dipende anche quali zone. Mediamente, certo, come hanno retto? Ma diciamo che in generale le strutture in muratura sono quelle che hanno avuto le maggiori problematiche rispetto a quelli in cemento armato, però adesso appunto trarre delle conclusioni di carattere generale è ancora presto. La prossima settimana tra l'altro partirà una ricognizione delle strutture prefabbricate, cioè dei capannoni industriali, dove appunto pare che ci siano state le problematiche più serie. La maggior parte dei problemi in questa zona. Come avete trovato l'edilizia dell'Emilia di fronte ad un terremoto? Perché non è mai stato, insomma, diciamo, non era le zone al massimo di priorità, ecco, per quanto riguarda l'Italia, le zone sismiche. Si è costruito bene? Ma effettivamente la zona è, se uno guarda le mappe di pericolosità, vede che la pericolosità è bassa. Se uno questa mattina controllavo quelli che erano i parametri attesi di accelerazione, che sono che è, diciamo, il parametro principale per guidare la progettazione, effettivamente è più basso rispetto a quello che si è registrato nella zona. Ciò nonostante, mi pare che, tranne alcuni casi molto particolari, eclatanti, ci sia stata una buona risposta. È chiaro che se poi uno va a vedere. Poi naturalmente ci sono gli sfollati, ci sono le situazioni difficili e queste restano. Ecco. Chiaro, chiaramente. Poi se uno va appunto a vedere le chiese piuttosto che le torri eccetera, che sono insomma le strutture, cioè da sempre più sensibili a questo tipo di problematiche, è chiaro che vede dei grandi disastri, questo sì. Però le altre strutture, insomma, tutto sommato un nota positiva in tutta questa pur difficile situazione. Certamente. Cioè, grazie allora Alberto Pavese, direttore Trace Lab. Avete sentito, comincerà nei prossimi giorni allora il controllo anche dei capannoni. Magari cercheremo di riaverlo con noi per capire anche qui cosa è emerso da questi primi controlli. Grazie nel frattempo per essere stato con noi. Grazie a voi, buon lavoro. Buon lavoro, buona giornata, buon lavoro a tutti. Ci risentiamo tra pochissimo con GR24. Diego Rovelli in redazione, Peter Bescapè resta qui in regia con noi. Buona giornata, buon venerdì, buon fine settimana da Anna Migliorati. Ci risentiamo tra poco.